Vittorio steso al centro della scena. Giulia e Michele lo aiutano ad alzarsi. Io... Che confusione. Perché io... Ah, sì, ecco. Ora ricordo. Benvenuti. Benvenuti, accomodatevi. Prego. Io spero che sia stato un giorno buono per voi. Sì, anche per me, un giorno... diciamo un giorno particolare, importante. Dunque, io sono qui per raccontarvi una storia di tanto tempo fa, sì, più di 30 anni fa, ma devo dirvi, vedete, io mica sono un letterato, io ho sempre fatto l'operaio, facevo il muratore, sì, ero impegnato nell'edilizia, tiravo sulle case, insomma, e non l'avevo avuto il tempo di studiare, la guerra, la famiglia, i problemi, che quelli non mancano mai, Però ecco, se ero ignorante, se non conoscevo Leopardi o l'algebra, però io mi informavo su quello che succedeva nel mio paese, seguivo la cronaca politica tutti i giorni, quella nazionale e anche quella internazionale. Io avevo la televisione, tenevo le orecchie tese, il cervello in allenamento. E poi io ero uno che non si tirava indietro, anzi, io partecipavo, mica me ne stavo a casa. Ero stato anche segretario della sezione del mio partito al paese, a Campoverde, una frazione di Salò. 23 settembre 1943. Dopo che il traditore generale Badoglio ha annunciato l'ignobile armistizio firmato a Cassibile con i rappresentanti delle forze anglo-americane, il duce Benito Mussolini ha proclamato l'istituzione della Repubblica Sociale Italiana come legittimo successore dello Stato italiano. A Salò viene fissata la sede centrale della cultura popolare e delle comunicazioni. Salò, brutto nome, eh? Uno pensa subito alle cose della guerra, e in effetti quando ero un giovanottello paura ne avevo a guardare quelle facce brutte, quegli occhiacci che solo se ti guardavano ti mettevano spavento. Però dalle parti mie mica sono così. Sì, le canaglie ci sono ovunque, ma Brescia è piena di brava gente, gente per bene, che lavora, che ha buoni sentimenti. Certo, anche adesso ci sono facce brutte, è cambiato il colore però, prima era nero, adesso è verde, ma non sono tanti, sono solo quelli che fanno più confusione, per questo sembrano tanti, ma io lo so, i bresciani... Beh, comunque, per tornare a quello che stavo dicendo, io, quando c'era da scendere in piazza, ci scendevo, mica stavo a casa. La Federazione CGIL CISL UIL di Brescia ha indetto per il giorno 28 maggio 1974 una manifestazione di protesta contro le continue provocazioni fasciste. La manifestazione prevede lo sciopero generale provinciale, cortei operai ed un comizio finale in Piazza della Loggia. Quel giorno lì, il 28 maggio, me lo ricordo, c'era un grande sciopero del mio sindacato, la CGIL, e che facevo? Non ci andavo. Sì, pioveva, però quando stai con tanti altri che la pensano come te, stai così bene che neanche la senti, la pioggia. È certo che in piazza si scendeva spesso, erano tempi difficili, complicati, però c'erano anche cose leggere, divertenti. Condotto da Corrado, il Festival di Sanremo 1974 si è concluso con la vittoria di... Festival di Sanremo l'aveva vinto Iva Zanicchi. Che canzone! Ciao cara, come stai? Ciao! Cara, come stai? Lei non risponde più. Ciao, cara. Una melodia, sembrava un'opera. Verdi, Puccini, quelli là. Al festival c'erano anche i capelloni, ma anche in piazza c'erano tanti capelloni, gli studenti, gli operai più giovani. E mica erano male, dicevano cose giuste. Certe volte erano un po' troppo irruenti, ecco. Ma insomma, erano giovani, avevano il sangue caldo e certe volte, quando c'era da menare le mani, dispiaceva anche a me di non avere 20 anni. Quando la polizia caricava, ad esempio, certe volte veramente per niente, non era successo niente, il corteo era pacifico, la manifestazione tranquilla, ma a un certo momento partivano i tre squilli di tromba e la polizia caricava lo stesso, te li trovavi addosso coi manganelli alzati e bombete, bampete, certe palate. Avessi avuto 20 anni di meno allora, ma erano tempi strani quelli. Succedevano cose che uno non se l'aspetta mica, cose buone e cose cattive. Ma lo sapete, ad esempio, che la domenica si andava a piedi? 2 dicembre 1973. Per questa domenica è previsto il blocco della circolazione delle auto contro l'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi. La benzina era arrivata alle stelle e così c'era, la chiamavano l'austerità. Voi non ci pensate, siete così abituati a usare la macchina, ma quell'anno era così, si andava a piedi. Io, a dire la verità, andavo in bicicletta, ma insomma era quasi bello che non c'erano le automobili, si chiacchierava di più. Poi io ero uno di carattere buono, un chiacchierone, lo dicevano tutti, e tempo ne avevo, ero appena andato in pensione. Il 18 marzo 1974 a Catanzaro riprende il processo per la strage del 12 dicembre 1969 a Piazza Fontana a Milano. Il processo però viene interrotto dopo poco a causa della comparsa di due nuovi imputati, due esponenti di Ordine Nuovo, formazioni di estrema destra, Franco Freda e Giovanni Ventura. E io mica l'ho capito perché lo facevano a Catanzaro, il fatto era successo a Milano. Comunque a Catanzaro era cominciato il processo per la bomba che avevano messo a Milano 5 anni prima, nel 1969, alla Banca dell'Agricoltura. Lo chiamavano il processo per la strage di Piazza Fontana. Poveracci, erano morte 17 persone, che mica c'entravano niente, che colpa avevano? Solo quella di stare lì, a quell'ora, quel 12 dicembre. E che colpa avevano? La colpa, l'avevano detto subito, era degli anarchici, gliel'avevano data subito, tanto erano sempre loro, si sapeva. Ma allora si faceva così, si prendeva uno che magari non c'entrava niente, lo si metteva dentro e si sparava la notizia sui giornali, si sbatteva il mostro in prima pagina, così si diceva. Ci avevano fatto pure un film, così la gente diceva che lo Stato funzionava e la polizia il suo lavoro lo faceva bene. Solo che poi a Catanzaro esce fuori che gli anarchici non c'entravano per niente, gli anarchici. Oh beh, gli anarchici, non è che ne avevo le stesse idee io, tutt'altro, ma insomma si prendevano sempre tutte le colpe e ne avevano avuti di morti anche loro. E anche per Piazza Fontana, chissà come, un anarchico era volato dalla finestra della questura di Milano durante un interrogatorio. Il 15 dicembre 1969 Giuseppe Pinelli, già staffetta nelle brigate partigiane Bruzzima alla testa, muore precipitando da una finestra della questura di Milano durante un interrogatorio relativo alla bomba scoppiata a Piazza Fontana. Dice che si era suicidato, che era sconvolto da quello che aveva fatto. Ma non è che io ci credo troppo alla polizia, anche perché dopo si è scoperto appunto che gli anarchici non c'entravano niente, erano completamente estranei. E allora uno perché si suicida? Di che si pente se non ha fatto niente? E si è scoperto che la bomba l'avevano messa i fascisti, d'accordo con i servizi segreti. Anzi, aspetta, i servizi segreti deviati, che mica posso dire che erano quelli regolari. E poi si scopre pure che la polizia aveva... Beh, dicono che non aveva detto e fatto tutto quello che doveva dire e doveva fare. Alla fine poi sono stati condannati anche dei capi importanti, dei capi generali, mica dei poliziotti qualunque, no, proprio i capi. Dice che avevano nascosto le prove, avevano spostato, non mi ricordo la parola, aiutatemi, come? Depistato. Come? Scusate, ma dopo la bomba sono rimasto sordo. Depistato. Sì, bene, grazie, ecco. Dice che avevano depistato le indagini, avevano protetto i terroristi, i criminali. Ma come? Loro? La polizia? Meno male che c'erano i carabinieri allora, uno pensa. Con una telefonata anonima al centralino della stazione dei carabinieri di Gorizia, il 31 maggio 1972 era stata segnalata la presenza a Peteano, sulla strada per Savogna, in provincia di Gorizia, di una Fiat 500 bianca, con due buchi nel parabrezza. Mentre tre carabinieri tentavano di aprire la 500, l'auto è saltata in aria, uccidendoli e ferendo altri due militi. A Peteano ne muoiono 3 di carabinieri. Scoppia una 500 abbandonata, loro vanno a guardare, boom, che se ne volano in aria, i poveretti, che mica era colpa loro se le cose non andavano bene, anzi, casomai le colpe erano dei generali che pure loro facevano, come si chiama, il depistaggio, e poi volevano fare pure il colpo di Stato. Anche per questo quel giorno lì a Brescia scendevamo in piazza. I lavori per la realizzazione di Piazza della Loggia iniziarono nel 1433 e proseguirono per oltre un secolo. La loggia e i porticati costituiscono splendidi esempi di architettura rinascimentale. Nel progetto furono coinvolti alcuni degli architetti più noti dell'epoca, quali Alessi, Palladio, Sansovino, ma il progetto definitivo sembra però sia quello di Lodovico Beretta. Che belli quei porticati della piazza! Io m'ero messo lì sotto i portici perché pioveva. La pioggia spingeva i manifestanti a cercare riparo lì sotto, in una zona in cui solitamente si sistemavano le forze dell'ordine. Io stavo vicino a un gruppo di persone che si vedeva che erano persone distinte. E poi ho saputo che c'erano dei professori, delle professoresse. E io comunque già li avevo visti ad altre manifestazioni. Era gente impegnata, mica turisti, eh? Erano tutti del PC. No, forse qualcuno era di quei gruppi un po' più spinti, insomma. Giulietta... Banzi Giulietta, sposata Bazzoli, 34 anni, insegnante, 3 bambini. Anche Luigi. Comunque l'area era quella lì, erano tutti... Anzi, eravamo tutti comunisti. Sì, comunisti. Allora era una bella parola. Oggi la dicono sottovoce, con vergogna. Comunisti. Ma c'era la dittatura. Che a me non mi ricordava mica la dittatura, l'armata rossa, i paesi dell'est, i missili a Cuba. Noi il comunismo nostro lo vivevamo bene, come una comunione. Tutto quello che abbiamo noi appartiene a tutti, e così siamo smisuratamente ricchi. Ma non ricchi di soldi, no, quelli li volevano i padroni. Noi eravamo ricchi di cose importanti, perché il comunismo nostro era un'altra cosa. Era appartenenza l'uno all'altro, era fratellanza, era solidarietà, era onestà, rispetto, era voglia di giustizia, era diritti e doveri anche, tutte e due. Una mano tesa, era l'uguaglianza. E poi noi comunisti, quando era stato il tempo di prendere le armi là contro i tedeschi, beh, mica eravamo stati a guardare, a parlare. Le avevamo prese le armi e le avevamo usate. E quanti di noi sono caduti? Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao. Stamattina mi sono alzato, ci ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via, bella ciao, bella ciao, bella. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore, e le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. E le genti che passeranno mi diranno che è il bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Io magari sbagliavamo, o forse ero ingenuo, ma io ero orgoglioso di essere comunista. E poi eravamo tutti persone per bene, mica ci mangiavamo i preti, però i nostri diritti non li dovevano toccare. Allora diventavamo, no, cattivi, no, ma insomma ci arrabbiavamo, non stavamo zitti. Il padrone si voleva fare la macchina di lusso col nostro lavoro, ma fattera la macchina di lusso, ma fatti pure la barca. Basta che noi ci dai una paga dignitosa, non ci costringe a una vita miserabile, i nostri figli vanno a scuola, devono studiare, mio figlio, mio nipote, io non volevo che poi facevo all'operaio, mi piaceva l'idea, non so, dottore o ingegnere, ma sempre comunista, che è proprio una bella parola. E l'azzurro sta nel cielo ed il verde sta nei frati ed il rosso è il colore dell'amore. E l'azzurro sta nel cielo. Il 12 maggio si era svolto il referendum sulla legge 898 del 1970. Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio. Il 12 maggio si era fatto il referendum sul divorzio. Adesso vi racconto. Avevano fatto una legge che permetteva il divorzio, però solo a condizioni abbastanza complicate, che poi è giusto, che sennò diventiamo come gli americani, che quelli si prendono e si lasciano, cioè si sposano e divorziano quando gli piace a loro. Insomma, una legge abbastanza giusta, ecco, anche se il divorzio, sapete, in certi casi, ecco, è proprio necessario, però non è mai una cosa bella. Il Vaticano allora si era mosso. Ma vi pare che in Italia si può fare una cosa che non sta bene alla Chiesa? Così la Democrazia Cristiana aveva messo su il referendum per cancellare la legge. Loro pensavano che avevano tutte le briscole, che vincevano a mani basse, e invece... Però che soddisfazione! In sezione avevamo pensato, dai, andiamo a prendere in giro quegli abbatini della DC, la Democrazia Cristiana, che quei sacrestani lì il divorzio non lo vogliono. Però poi c'hanno tutti l'amichetta o l'amichetto, e poi topretacci nella cabina Dio ti vede, il partito no, che mi ricordo che al mio nipotino gli mettevano i biglietti nella tasca del grembiulino. Se babbo e mamma votano per il divorzio vanno all'inferno. E mio nipote lì che mi guardava con gli occhi grandi grandi, nonno, diglielo tu alla mamma e al babbo di non votare per il divorzio, nonno, la mamma e il babbo vanno all'inferno. Ma no, Mona, che non ci vanno all'inferno, che Dio, se c'è, ha sicuramente cose più importanti da fare che stare a sentire i fanfani, gli andreotti, i rumor, le minacce dei preti. Beh, facevano presa sui bambini però, quei bislacchi. Giorgio Almirante, segretario del Movimento Sociale Italiano. Almirante, voi non lo sapete chi era Almirante. Era il capo dei fascisti, uno che stava anche a Salò ed era importante anche allora. Io sì che me lo ricordo già da allora, con quello sguardo minaccioso, quelle sopracciglia cattive, che si sapeva che firmava gli ordini di esecuzione degli antifascisti e li mandava a morte. E poi te lo ritrovi al Parlamento. E come te lo spieghi? Beh, comunque Almirante aveva fatto tutta la sua campagna contro il divorzio insieme a Fanfani e alla DC, e poi era stato il primo a divorziare appena la legge era passata, almeno così si diceva. Però la vittoria al referendum voleva dire che il paese stava crescendo, che non eravamo solo contadini e ignoranti, che ci avvicinavamo agli altri paesi europei, quelli che dicevano sempre tutti che erano civili, la Svezia, la Danimarca, che quelli il divorzio ce l'avevano da sempre. Questi qui vicino a me, sotto i portici, questi mica divorziano. Sono belli, sembrano due colombi. Clementina si chiama lei. Calzari Clementina, 31 anni, insegnante. E lui, il marito, Alberto. Trebeschi Alberto, 37 anni, insegnante. I due hanno una bambina. Sono due insegnanti, ma due insegnanti mica come quelli beceri che c'erano prima, che sapevano solo punire. No, Clementina e Alberto, due insegnanti coi fiocchi, di quelli che cercano un altro modo di fare scuola, così dicevano i loro alunni. E questo non c'era neanche il bisogno che lo dicevano, perché avevano facce pulite, facce giuste. Gli insegnanti la devono avere la faccia giusta. La scuola deve essere parte integrante della vita, diceva Alberto. Era un bel pensiero questo. Lo capisce anche un ignorante come me, perché significa che la scuola non è più un posto chiuso come una fabbrica, una chiesa. La scuola è una cattedrale del sapere, ha detto l'onorevole Sullo, ex ministro della pubblica istruzione, democristiano. Che a me poi questo fatto dell'onorevole un po' mi urta i nervi. Ma come? Con tutto quello che combinano loro sono onorevoli? Ed io che sono? Io che ho lavorato da quando ero ragazzino e le tasse le ho sempre pagate. Ma sentite a me che sono molto più onorevole io di tutti quelli là. Oh, che confusione. Ma di che stavamo parlando? Della scuola. Della scuola, eh. Ah, ecco, grazie. E che stavo dicendo della scuola? La scuola diventa vita. La scuola diventa vita, apre le porte, c'entrano gli studenti, le famiglie, c'entra la gente comune, la società, il mondo anche. Adesso che c'è quella cosa che è meglio della televisione, quello tu premi un tasto e ti trovi in Cina. Ora non mi ricordo come si chiama, che all'epoca mia proprio non c'era. Si chiama come una squadra di calcio, Inter, non so, qualcosa del genere. Ma insomma era così. La scuola cresceva come tutto il paese. Ma questo mica andava bene a tutti. C'era gente che aveva paura dei cambiamenti. Non era poca, si sa, i cambiamenti fanno paura. Figuratevi, la sinistra diventa più forte. Addirittura si diceva che andava al governo. E lo dicevano, anzi lo volevano anche alcuni democristiani. Moro, ad esempio. Infatti poi lo hanno ucciso. Ma c'erano anche tanti politici, tante persone importanti. Persone potenti che non erano d'accordo. E quelli non è che se ne stavano con le mani in mano ad aspettare. C'erano i servizi segreti italiani. Dobbiamo dire i servizi segreti deviati. Dobbiamo dire che erano deviati, perché se erano quelli regolari, uno potrebbe pensare che eseguivano gli ordini dello Stato. E questo non lo possiamo mica dire. Magari lo possiamo pensare, ma dire no, non lo possiamo dire. C'era la CIA. La CIA, il servizio segreto americano. Gli americani mica volevano che le sinistre arrivavano al governo. C'era la massoneria. Logge massoniche segrete. Organizzazioni armate occulte. C'erano delle organizzazioni armate misteriose. Capi di Stato Maggiore. C'erano capi di Stato Maggiore. Alti gradi dell'esercito e dei carabinieri. Ufficiali superiori dell'esercito e dei carabinieri. C'erano alte cariche dello Stato. Alte cariche dello Stato. I vertici della polizia e della finanza. C'erano i vertici della polizia e della finanza. C'erano strane alleanze. Strane alleanze. Strane alleanze. Io poi tante cose non le sapevo, giusto quelle che arrivavano in sezione a Salò. Però il quadro era chiaro. Ma perché pensate che sia scoppiata la bomba in piazza a Brescia? E quelle di prima? I primi attentati in tutta Italia erano quasi delle prove generali, all'inizio del 69, ma non c'erano state vittime. La prima bomba vera, quella che aveva fatto i morti e i feriti, era stata quella di Milano, ve l'ho detto prima, alla banca in piazza Fontana. E poi bombe nei treni, bombe nelle macchine, bombe nelle stazioni. In 10 anni ci sono stati più di 300 attentati. Adesso ci vogliono far credere che erano le Brigate Rosse, ma le Brigate Rosse erano assassini, ma ammazzavano chi dicevano loro. Bombe non ne hanno messe mai le Brigate Rosse. Ma allora queste bombe chi le ha messe e perché? Questi volevano che la gente si metteva ancora più paura e pensava che se la sinistra andava al governo e tutto il paese cresceva, questo significava bombe, morti, attentati, paura. E allora era meglio lasciare tutto come stava, serrarsi intorno allo Stato, anzi volerlo più forte, più autoritario. Chiedere più ordine, più polizia, più controlli. E la sinistra al governo, ma per carità, neanche a parlarne. Ecco a che servivano le bombe: a non cambiare niente, a lasciare al governo chi già ci stava. Tutti quei morti, tutto quel dolore. Beh, adesso provate a rispondere: chi le ha messe quelle bombe e perché? L'ha detto qualcuno, la strage è lo strumento più adatto per creare il massimo di disordine e così ristabilire l'ordine. Anche Euplo le sapeva queste cose. Natali Euplo, 69 anni, pensionato, 2 figli, ex operaio. Che stava in piazza anche lui, sotto i portici, perché non mancava mai alle manifestazioni antifasciste. Ed era stato partigiano. Lui diceva cose interessanti, anche dure, tipo... Tolto un fascista, ne spunta un altro. Come l'erba cattiva, oppure bisogna andare oltre, colpire gli interessi economici e politici che stanno dietro i fascisti, che li sovvenzionano, che gli danno le bombe. Beh, adesso lo sappiamo che aveva ragione, eh? Forse perché era il più anziano di tutti noi. Ma allora, nel 1974, ancora non capivamo bene. E poi già colpire è una brutta parola, però poi anche colpire, ma come? Come colpire? Le nostre erano armi formidabili in una democrazia, ma poco evidenti. Il voto, la coerenza, l'esempio, la solidarietà fra compagni. Questi, ragazzi, questi mettevano le bombe, mica chiacchiere. Che a me mi veniva da chiedere, ma allora la democrazia? Poi c'era Bartolomeo. Talenti Bartolomeo, 55 anni, operaio, già due nipotini. Lui stava un po' fuori dai portici, non so, forse la pioggia non gli dava fastidio. Era stato uno sportivo, forse per questo non sentiva la pioggia. Mi sembra che in gioventù era un calciatore forte, uno che aveva giocato in una squadra di quelle grosse, tipo Brescia o Mantova. Beh, comunque lui stava fuori dai portici, ma vedevo che ascoltava quello che dicevano i professori vicino a me. Dicevano che bisognava fare attenzione, perché questi attentatori erano protetti dalle alte sfere. Avevano ragione, sì, anche dopo. Ma lo sapete che in piazza, dopo la bomba, i pompieri erano arrivati prima del giudice e della polizia scientifica. Avevano dato una bella lavata, una bella ripulita per terra, perché sennò la gente si impressionava per il sangue, lo sgomento. La scena era apocalittica, non sostenibile, hanno precisato i responsabili dell'ordine pubblico. Quando è arrivata la polizia per raccogliere il materiale, i reperti, le schegge della bomba, gli indizi utili, non c'era più niente. Non si è mai saputo chi aveva dato l'ordine ai pompieri, però avete capito come funzionava? Mio figlio, quando nel corso del processo è uscito fuori che non c'erano reperti utili, si è ricordato che quella mattina in tasca avevo un portamonete, 100 lire e un paio di occhiali da sole, che ce l'avevo in tasca perché il sole non c'era mica. Allora li ha consegnati al giudice e sono state trovate tracce dell'esplosivo. Pensate, ad anni e anni dall'esplosione. Veramente quella mattina avevo anche il portafogli e l'orologio, ma quelli sono spariti nel periodo che sono stato in ospedale. E beh, anche a Brescia succedono queste cose. Pinto Luigi, 25 anni, insegnante. Elterun, un bravo ragazzo, un altro insegnante, materie tecniche. Mi sembra a Montisola, la nostra Montisola. A quelli come Luigi io gli devo dire grazie, perché noi siamo una terra di lavoratori, di gente schietta ma senza cultura, e lui veniva dal sud, lui dalla Puglia, ma c'era chi veniva dalla Sicilia, da Napoli, e ce la portava questa cultura che non avevamo e che era importante in un periodo in cui fare l'insegnante, con quello che pagavano oltretutto, era ancora una scelta anche difficile. Io ho sulle mani ancora il ricordo delle bacchettate del mio maestro alle elementari. Anche per questo sono andato a lavorare presto, perché non mi piaceva che uno ti picchiava se non sapevi la poesia a memoria. Luigi era diverso, quelli come lui lo amavano il loro lavoro, e le mani ai ragazzi gliela davano, gliela stringevano, mica gliela picchiavano. Il mio nipotino aveva un maestro di Caserta, uno con un sorriso sulla faccia che pareva una luna piena, che i ragazzini non li ha mai picchiati. Eppure il mio nipotino le poesie le sapeva tutte. Ecco Franco Castrezzati. Oh, sul pacco è salito uno in gamba, è uno della CGIL, un sindacalista, si chiama Castrezzati. Anche lui dice che a Brescia tira un'aria brutta, eh? Sono aumentate le aggressioni a gente di sinistra, c'è molta intolleranza. Hanno messo delle bombe senza vittime, per fortuna, in alcune sezioni del PC e del PSI, i socialisti, ma ne hanno messe anche alla COP, sì. No, io poi non ci credevo quando me l'hanno detto, ma questi imbecilli hanno messo delle bombe anche in una chiesa, figuratevi. Però poi, ma che ci avevano in testa questi? Avevano lasciato delle scritte: viva Dachau, viva Dachau. Dachau? Sul cancello di Dachau era scritto Arbeit macht frei. Ma Dachau era un lager nazista, un campo di sterminio, cioè un posto dove degli uomini uccidevano degli altri uomini, le loro donne e i bambini. I bambini? perché erano di un'altra razza. Però guardate, questo l'hanno fatto delle mani d'uomo, non è stato un terremoto, uno tsunami che ai tempi miei neanche si sapeva che esisteva, non sono state guerre, campi di battaglia, eserciti in armi, sono state mani feroci d'uomo. E no, scusate, io non ci riesco. Io non ci riesco a credere che un uomo può ammazzare un altro uomo così, per le sue idee, o un bambino, per Dio, un bambino, per un colore diverso della pelle. Non ci riesco. Perché così non fanno neanche le bestie. Neanche le bestie fanno così. Neanche le iene. Le iene o i leoni. Li vediamo in televisione inseguire le gazzelle, ucciderle. Pensiamo, povere gazzelle, e proviamo pena. Ma le iene, i leoni, le ammazzano per mangiarle, quelle gazzelle. Questi con le bombe. E io non ci riesco. Siamo proprio stupidi e ingenui, noi che pensiamo che tra gli uomini c'è altro, c'è qualcosa di diverso dall'odio, dalla morte, dalle bombe. Ma è così, è vero? Siamo degli stupidi? Siamo degli ingenui? Perché poi come si fa a dimenticare? Che poi mica si può dimenticare, no? Che poi come fai a dimenticare gli occhi di un bambino ammazzato così? Quegli occhi fissi che c'è il cielo chiuso dentro. Ma non ci sono sorrisi, giochi, altalene, domani. E allora come si fa a dimenticare? E mica per vendetta, no? La vendetta ce l'hanno i cowboy americani. Noi siamo quelli che siamo, noi sappiamo anche abbracciare, se è giusto. Porgere l'altra guancia. Porgere l'altra guancia, no. Porgere l'altra guancia. Però sappiamo anche perdonare. Ma dimenticare... No, non si può dimenticare, perché se... Non si deve permettere che quell'orrore, quelle mani di uomini senza pietà, di nuovo... Il negazionismo è quella teoria che ritiene la Shoah non sia mai esistita. Eppure capita di sentire persone che negano tutto, pure dei professoroni, non è successo niente, dicono, è solo un'invenzione, propaganda. E teste rasate, piene di tatuaggi e spille, senza cervello lo gridano, con le bocche storte, una luce negli occhi, di tale stupida cattiveria che dici, ma non è possibile. Non è possibile che un uomo, un ragazzo magari, diventi questo. Ma siamo proprio stupidi e ingenui, noi che pensiamo... I fascisti decidono che è ora di cambiare strategia e i loro capi dicono passare dalle parole ai fatti. Cioè praticamente passare dalle parole alle bombe. Che poi 10 giorni fa gli è scoppiata in mano una bomba e ha ammazzato uno di loro, un ragazzo. Che se non gli scoppiava la bomba che portava in giro con la Vespa ci ammazzava qualcuno. E però mi viene da dire, povero ragazzo, i tuoi genitori ti amavano e ti hanno perso. E sai quante lacrime gli hai fatto versare, mona che non sei altro. Insomma, una brutta aria a Brescia, proprio una brutta aria. Però Livia e il marito, Manlio, stamattina sono usciti da casa con un'aria felice. Per venire qui in piazza alla manifestazione dicevano stiamo andando incontro alla vita. Ah, Livia, ecco, non ancora vi ho parlato di Livia. Bottardi Livia, sposata a Milani, anni 32, insegnante. Livia, chi la conosceva diceva che era una personalità particolare, molto rigida, una tosta, anche se un'espressione dolcissima. Però un antifascista intransigente, sempre in cerca di conoscenza, una che voleva stabilire rapporti umani, non convenzionali. Livia è sotto i portici con noi, hanno fatto sciopero tutti e due, come tanti che stanno qui in questa piazza. Manlio, il marito, la raggiungerà presto, ma dopo la bomba, e lei non potrà salutarlo. Due uomini passano. È pronta la bomba? Una signora li sente, si spaventa. Ma poi pensa che è uno scherzo figurarsi una bomba proprio qui. Queste cose capitano sempre agli altri, che idea. No, queste cose non capitano sempre agli altri. Due uomini passano. Io non li noto, ma forse ci guardano in faccia. E forse, chissà, non ci vedono neanche, chissà. Siamo persone per loro? O siamo già corpi stesi a terra col sangue addosso? Stracci. Castrezzati sta parlando dal palco. A proposito della bomba dirà che lui si indigna, prova rabbia, orrore. Ma mica si stupisce. Perché questo è il modo in cui parlano quelli là. Ce l'hanno nel sangue la violenza, nei geni. Ma poi i fascisti l'avevano anche detto dopo la morte del ragazzo sulla Vespa. State attenti, ci vendicheremo con le bombe. Fermato Partito Nazionale Fascista. Ordine Nuovo, Ordine Nero, Gruppo Anno Zero, Squadre di Azione Mussolini, Movimento Armato Rivoluzionario. Che non si capiva nemmeno quanti erano, e ogni giorno spuntava una sigletta diversa, che sembrava pure una cosa ridicola, ma poi... Però nessuno gli aveva dato retta a quelle minacce, e la polizia neanche aveva diffuso la notizia, e... che magari se lo sapevamo, magari, forse... Tra stampa e polizia... Poi si sa, tra stampa e polizia non è che funziona sempre tutto, eh? E però la stampa c'era riuscita a farcelo sapere come la chiamavano la bomba, quelli lì. E sapete come la chiamavano la bomba, parlando tra di loro? Ho i brividi. La chiamavano... Lo scherzettino. Facciamogli uno scherzettino ai comunisti. Lo scherzettino. Lo scherzettino. E nonostante questo, Maglio, il marito di Livia, parla di perdono. Però lo dice, anche se si volesse perdonare. Perdonare chi, se a quasi 40 anni di distanza ancora non c'è un colpevole, ancora non sappiamo niente, anche se sappiamo tutto, perché sappiamo tutto. I due uomini sono passati. La bomba è pronta. Sta in un cestino dei rifiuti, vicino a una colonna dei portici. Il cestino è di metallo e la bomba lo trasforma in una nuvola di schegge micidiali. Sono quelle che fanno i morti. E meno male, perché così i morti fanno da scudo agli altri. La bomba doveva farne molti di più di morti. E poi piove, per fortuna, piove. Perché così i bambini sono rimasti a casa, che i bambini in piazza ci andavano. Che era come una festa per loro, ma quel giorno, per fortuna, piove. La pioggia bagnerà le bandiere che gli operai stendono a coprire i corpi. Il sangue sembrerà meno rosso, meno crudele. I due uomini sono passati. La bomba sta per scoppiare. È quasi tempo che io prenda il mio posto. Però, ancora un attimo, che voglio dire una cosa. Vi voglio chiedere una cosa. C'è speranza? Qualcuno dice che i nipotini di quelli che mettevano le bombe oramai vanno anche al governo. Gli operai non contano più niente, ci hanno comprato. 4 soldi in più sul salario, il miraggio della globalizzazione, qualche minaccia di spostare la fabbrica. Livia, Giulietta, Clementina, Alberto, Luigi. Un ministro dell'istruzione, recente, troppo recente, uno della razza nostra di vicino Brescia, ha rinnegato tutti i valori che voi difendevate, quelli per cui siete morti. Allora ve lo devo chiedere. C'è speranza? C'è speranza? Alfredo Balzoli, il figlio di Giulietta, dice di sì, che quello che è successo non può essere dimenticato, che ci ha indicato una strada, una direzione, che ci fa pensare sempre a quello che è giusto e a quello che non lo è. Io non lo so, io ero un operaio, i pensieri complicati certe volte volano troppo alto, mi sembra che è così, ma poi altre volte mi sembra che è stato tutto inutile, anche la mia morte, inutile, a meno che, aspettate, ho degli appunti, uno me l'ha dato mio figlio, eccolo, anche se è morto non è detto che l'uomo sia sconfitto, e l'altro è il mio nipotino, il nipotino ora è un omone, sentite. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Il tempo è finito. Bene, il mio tempo è finito e anche il mio racconto. Ed è il momento di tornare. Io sono l'ultimo degli 8. Io sono Vittorio. Zambarda Vittorio, anni 60, ex operaio, appena andato in pensione. La bomba mi ha squarciato il corpo, ma non mi ha ucciso subito. Ci sono voluti altri 18 giorni per morire. Dalla bomba alla morte.